E buonasera a tutti, benvenuti ancora sui Colori dell'Anima, sono le 21 precise e oggi siete ancora in studio con noi, con Monica e con Cristina la regia. Ciao Cristina. A tutti. E anche con un ospite speciale, un special guest, Angelo Gregorio. Buonasera. Ecco, e allora chi è questo ospite? Cosa sarà il tema della serata? Pensavo come tema, ho pensato atmosfere musicali, ma vediamo perché atmosfere musicali particolari, grazie a un sax, sì, giusto Angelo? Sassofono, sì. Abbiamo il piacere, esatto, di ospitare un musicista italiano qui a Bruxelles, quindi... Esatto. E allora, che colore diamo a queste atmosfere musicali? Cristina, che colore pensavi per oggi? Io pensavo al verde. Al verde, vediamo un po' se Angelo lui pensa che potrebbe andare bene un verde. Ma anche un bel rosso. Un rosso, come il nome della trasmissione è I Colori dell'Anima, quindi tu daresti questo rosso. Rosso? Sì, perché avevo fatto l'associazione con verde, rosso e bianco la bandiera, però no, direi anche giallo e come il sole che ha brillato oggi a Bruxelles. Wow! E blu, come il cielo. Come il cielo che anche oggi ha brillato a Bruxelles. Si è visto anche oggi. Quindi direi che questa sera il colore è l'arcobaleno. Ma sì, sì. Prendiamo tutti i colori perché la musica prende tutti gli ambiti della nostra vita, quindi un po' tutti i colori, il rosso della passione, il verde della natura, il blu della tranquillità, dei sentimenti. Esatto, quindi anche tutti i colori che andremo a scoprire anche un po' nelle composizioni di Angelo, giusto? Eh sì, perché siamo qui insieme, qui riuniti. Esatto, perché Angelo ha qualcosa di particolare anche da dirci. E allora, Angelo, prima di lanciare la prossima canzone, ecco, volevo dirti, allora, presentati un attimo ai nostri radioascoltatori. Allora, chi sei, che cosa fai, che cosa ci fai qui a Bruxelles, anche tu? Il primo giorno a scuola, quando la maestra ti chiede, dai, esatto, dimmi chi sei, sì, chi sei? E tu presentati, non hai studiato. Presentati in tre frasi. In tre frasi. Tre frasi, queste sono le classiche cose da radio, dimmi tre frasi che poi tu ti impappoggi. La comunicazione moderna è fatta così. Sì. E io sono una persona che, come molte qui a Bruxelles, si è trasferita qui a Bruxelles perché è arrivata qui e mi è piaciuta molto la città. Io sono originario di Salerno, sì, una città che sta vicino alla costiera amalfitana, sul mare. Bellissima. Uno dei posti più belli che abbia mai visto nella mia, sì, vita. Sì. E niente, sono arrivato qui con il famoso progetto Erasmus al conservatorio, però, e poi ho deciso di rimanerci, ma magari lo spieghiamo più in là. Angelo, che cosa ti ha fatto innamorare di Bruxelles? Sicuramente non il tempo. Venendo poi da Salerno. Assolutamente. Paragone. Esatto. Che cosa mi ha fatto innamorare di Bruxelles? Ovviamente la possibilità di fare quello che uno vuole. Per quanto riguarda il mio caso, della musica, dell'arte, lo dovete decidere voi, ma della, sì, musica. E perché, come noi sappiamo bene, in Italia questo attualmente, per quello che so, non è tanto possibile. E allora, quando sono, sì, venuto qui, ho detto, caspita, si può, e allora perché no? Mi, esatto, piacerebbe fare questo nel mio paese, però non posso. Esatto, e allora scusa, questo si può, cosa si può? Cosa puoi fare domani e dopodomani, per esempio? Domani e dopodomani, per esempio, che era poi anche una delle ragioni per cui sono qui. Esatto. Sono a presentare questo nuovo disco, di cui avremo modo di parlare durante la serata, sì, all'ULB, all'Università Francese. Università Libera di Bruxelles. Sì, alle 20:30 alla sala del VO, battimento F e battimento. edificio F1, ed è una cosa molto bella perché partecipo con il Festival dei Monologue d'Autun e niente, ci sarà prima questo spettacolo teatrale di 50 minuti, dove ci saranno 10 monologhi, e nei quali io interagirò con tre di questi monologhi, quindi è veramente interessante di vedere come un sassofono può influenzare un monologo e il monologo può influenzare il modo di suonare il sassofono. E alla fine, quindi verso le 10, spero, ci sarà il mio concerto dove presenterò interamente questo nuovo disco Alla ricerca delle radici. Esatto, quindi tu utilizzi, poi dopo appunto lo studieremo durante la puntata, il sassofono in una maniera innovativa e particolare, non come di solito, come solitamente lo conosciamo, quindi per il jazz. Sì. Esatto, ma avremo modo di parlarne durante la puntata. Adesso direi visto che abbiamo parlato del jazz e del sassofono come strumento che rappresenta più di altri, o come tanti altri, mm-hmm, il jazz, ascoltiamo una canzone del jazz più recente, moderno. Prima di fare una carrellata un po' della storia di questo stile musicale, ascoltiamo Esperanza Spalding, una musicista vincitrice, migliore musicista, migliore nuova artista del 2011, una contrabbassista. Sicuramente che ha meno bisogno di promozione di quanto ne aveva bisogno del tuo disco, esatto. Con una voce delicata e dolcissima. Bellissima, sì. Allora la lanciamo. I know you know. Ed eccoci qua ancora sui Colori dell'Anima, Radio Alma, e abbiamo appena iniziato con la trasmissione dal titolo Atmosfere Musicali. Wow. Qui in studio abbiamo Angelo Gregorio con Cristina la regia e io. Esatto. Allora, se ci volete chiamare, il numero è lo 02 345 26 56. Motivo in più per chiamarci, perché Parlare con Cristina la regia. Esatto. Perché altrimenti nessuno mi sente la mia voce. Esatto, per lasciare nome e cognome, non per uscire, ma cioè se si vuole uscire insieme per andare al concerto di Angelo domani. Sì, domani sera. Esatto, quindi ci sarà il CD in regalo tre persone che chiamano, tre ingressi gratuiti. Giusto? Giustissimo. Esatto. E quindi se invece volete sentire di più, vogliamo ripetere il numero di telefono? Allora 02 345 26 56. Il sito invece è radioalma.eu, e dove potete trovare anche le trasmissioni in podcast precedenti e questa presente. Allora, Cristina, allora io so questa frase, no? Allora dice: in genere il jazz è sempre stato rappresentato come il tipo d'uomo con cui non vorreste far uscire vostra figlia. Dove l'hai trovata? Il Duke Ellington. Wow. Allora. Tu ci sei uscita stasera, cosa ci sai dire? Poco raccomandabile questa musica. Poco raccomandabile. Poco raccomandabili le atmosfere e tutto il resto. Pubblicità negativa. Questo è jazz, ho parlato di jazz. Sì, sì, appunto. Parliamo di uno stile musicale che è relativamente recente rispetto agli altri e che ha le sue origini nella musica africana e che nasce in America agli inizi del 1900. Allora, Angelo, naturalmente sei libero di intervenire, tutte le informazioni che certo, hai, sicuramente. Certo. Fino adesso sono tutte sbagliate, però sto scherzando. Poi le corrigiamo tutte alla fine. Quindi, che cosa dire? Il jazz nasce in una città che tutti conoscono, New Orleans, e in un quartiere un po' particolare chiamato Storyville, che è il quartiere a luci rosse di New Orleans. Te pareva. Certo. E l'ho detto io. Ecco perché è poco raccomandabile. Esatto, vedi. E allora, perché questo Storyville? Perché un politico, Sidney Story, che aveva fatto questa legislazione per il distretto di questo Storyville, voleva ridurre, mettere insieme tutti gli aspetti più negativi, diciamo, della città, quindi la prostituzione, per poter controllare e sorvegliare quest'area. E il risultato è stato questa musica fantastica. Quindi vabbè, lascia un po' a riflettere. Quindi mamme, non fate ascoltare il jazz ai vostri figli. Assolutamente no. Perché se no ci escono insieme, magari imparano a suonare lo strumento. Allora, le caratteristiche del jazz sono senza dubbio l'improvvisazione e la presenza di una blue note. Angelo, vuoi spiegarci che cos'è questa blue note? Beh, di sicuro questa blue note non è l'unica caratteristica del jazz, però la blue note fa parte di una determinata è una nota di una determinata scala che, diciamo, quando la si suona, si esce un po', tra virgolette, senza andare troppo nel dettaglio, si esce un po' dalla sonorità in cui si è, quindi da questo senso di un attimo, tra virgolette, perdita di orientamento, di tonalità, perché è una nota, sì, è una nota diversa che al nostro orecchio, che siamo abituati a sentire senza scendere sempre nei particolari, a determinate cadenze, a determinate cose, questa nuova nota, che poi non è solo quella, come dicevo, a quell'epoca fece scalpore. Sì. E non solo questo, però no, certo. Questa, diciamo, è, diciamo, la caratteristica, come tu hai ben detto, che ha fatto poi scaturire questa cosa. Da qui le mamme hanno detto: non uscite più con i vostri figli. Esatto, però non so quanti figli non abbiano mai ascoltato il jazz. Ecco, esatto. Poi altre caratteristiche le nomino così, ma sono un po' tecniche: il ritmo swing sincopato e la poliritmia. Ma per andare un po' sul semplice, questa musica mantiene gli elementi principali delle radici africane, quindi le percussioni, i tamburi, la voce non impostata, che sarebbe la voce leggera, non la voce lirica. Questa è la cosa impostata. Ecco. E il jazz più, sai, signorina, buonasera. Fantastica. Un po' più questo, guarda, questo, più. Che proprio le figlie non ci devono uscire, no? Bene, e allora è anche chiamata musica colta, come dicevamo prima, ma in realtà è la musica colta popolare. Perché nasce... Questa è bella cosa che hai detto, musica colta popolare, sì. Mi piace. Grazie. Perché nasce dalla popolazione, da queste radici semplici dei neri africani che, come tutti sappiamo, lavoravano nelle piantagioni e che hanno scandito la loro vita con i canti tradizionali. Mm-hmm. Ed è un genere musicale che ha saputo mescolarsi con altri generi, ad esempio con la musica brasiliana, con la bossa nova brasiliana negli anni 60, o anche con altre musiche. Ha saputo improvvisare sempre di più con il jazz free negli anni 50, mi sembra, e oggi arriva fino alla world music, è un misto di tanta musica. Sì. Un'altra caratteristica è che questa musica nasce dai neri africani, ma poi è stata sviluppata, è stata resa molto più conosciuta. È stata... diciamo, trapiantata. Trapiantata dai bianchi. E questo è interessante perché sempre la musica, credo che come l'arte, è un'espressione culturale, ed è interessante vedere come le varie culture si sono mescolate, hanno portato dei bellissimi risultati. Esatto. Allora, che altro vi volevo dire? C'è anche un altro, ci sono variazioni negli anni, c'è un cool jazz. Mm-hmm. E con Miles Davis, per esempio, e Stan Getz, di cui ho già parlato, che ha suonato insieme con Astru Gilberto e sua moglie, per fare un esempio, parliamo di Corcovado, mm-hmm. La ragazza di Ipanema, eccetera. Sì. Canzoni conosciute. Consumatissime, esatto, sì. E poi c'è il free jazz, che sarebbe una improvvisazione totale. Quindi sì, proprio free. Penso che sia un po' difficile riconoscere la melodia, la canzone in questo tipo di jazz. Beh, nel buon free jazz si riconosce anche quella, però hai quasi completamente ragione. E in tutto questo c'è questo sassofono che è sempre presente, sì, e accompagna questo cammino del jazz. Esatto, il sassofono che è nato proprio qua in Belgio, in particolare a Dinant. E da da Anton Joseph Sachs, detto Adolf Sachs. Sì, il che suona molto tedesco, Adolf Sachs, però esatto. È belga. Esatto, cercò per tutta la vita di perfezionare degli strumenti a fiato e tra l'altro, curiosità, inventò dispositivi per migliorare l'intonazione, il suono e la facilità di esecuzione, depositando 33 brevetti. Sì. Tantissimo. E appunto lui nasce a Dinan, appunto una città del Belgio che ancora oggi rappresenta un punto d'incontro per tutti i sassofonisti del mondo e dove ogni 4 anni si tiene uno tra i più grandi concorsi internazionali dedicati a questo strumento. Tu confermi? Sì, e c'è anche un bellissimo festival di jazz a Dinan che porta poi lo stesso nome. Veramente una bella aria lì si respira, sassofonisticamente parlando. Ecco, io ricordo di essere andata, c'è questa panchina con Adolf lì, allora sì. Ho fatto proprio una foto, io e Adolf. E, tra l'altro, nei primi 25 anni della sua invenzione, il sassofono raggiunse il successo grazie soprattutto alla sua introduzione nell'organico delle bande militari francesi. Questa è molto giusta questa cosa, perché infatti non riuscì a farsi spazio nell'orchestra quando fu inventato, ma prese subito piede nelle bande, nelle orchestre, come tu hai ben detto, delle bande militari, perché in orchestra il sassofono è stato sempre mal visto sin da quando è nato, perché non si sapeva dove collocarlo, perché aveva questa voce, si parla di sassofono alto principalmente, in contralto, aveva questa voce che era un po' a metà tra un violino ma anche un violoncello, un clarinetto, e quindi il compositore non aveva una sorta di... non è né carne né pesce, non so dove piazzarlo, quindi, ed è per questo che tutti i grandi compositori come Debussy lo hanno usato, però l'hanno usato in maniera quasi come a far vedere il limite del sassofono: questo strumento non è bello, non lo suonate, ecco, sì. E, anche se poi gli stessi hanno fatto delle composizioni bellissime, è più nel Novecento che, per quanto riguarda la musica classica, il sassofono incomincia a prendere piede con la musica tonale, però è giustissimo questa cosa che tu hai detto, che ha preso subito immediatamente nelle bande militari soprattutto. Esatto, infatti fino al 1920 il sassofono, come dice, occupa nella musica classica solo un posto marginale. Mm-hmm. E le prime composizioni per questo strumento si devono a compositori non molto celebri, ma non per questo poco audaci, che scrissero musica proprio nei primi anni della diffusione del sassofono, ovvero appunto negli anni della sua invenzione. Tra l'altro, prima parlavi appunto di appunto l'introduzione dello strumento, magari insomma nelle orchestre, così. È stato Gioachino Rossini, mm-hmm, che durante il suo soggiorno parigino nel 1844 dichiara, prendendo a testimone il suo editore, dice che con il sassofono è la più bella pasta sonora che io conosca, ed è proprio lui ed è proprio lui che introduce lo studio del sassofono, mi sembra, al Conservatorio di Bologna. Sì, esatto, però non è niente, infatti nei conservatori tutt'oggi si come pezzo per il diploma, quindi che ti, diciamo, ti investe dal titolo di sassofonista, sì, si studia e si deve seguire un pezzo di Jacques Ibert, che è un pezzo del Novecento, e quindi diciamo che ha preso piede ma tardi, e Rossini, sì, bene per lui, ha detto che era una grandissima pasta sonora. Io credo che sia veramente così. Esatto, e poi tra l'altro nel 1884 che viene introdotto nel Corpo di Musica Municipale di Milano, che è l'odierna civica orchestra di fiati del comune proprio di Milano, in cui sono presenti un sassofono soprano, un contralto e un tenore. E tra l'altro appunto questo povero Sachs ha diverse vicende, va a Parigi, insomma, morirà in miseria nel 1894. Sì, questa è la cosa più sì è vero esatto. E quindi niente, dopo questa introduzione Direi però di iniziare un po' a quello che sarà questa seconda parte della trasmissione con un brano proprio del nostro musicista e compositore sassofonista qua presente. Magari facciamo ascoltare quello più corto, giusto come introduzione? Sì. Che diciamo giusto per aprire questa seconda parte della trasmissione. Sì, titolo Cristina? Il Renascente. Ed eccoci ancora su Radio Alma, I Colori dell'Anima. Quello che avete appena sentito è un pezzo del nostro Angelo Gabriele. Gregorio. Angelo Gabriele, Gregorio. Mi hai preso per un angelo? No, ma sai perché? Perché conosco uno che si chiama Angelo Gabriele. No, veramente, sì, Angelo, non capisco mai qual è il nome, qual è il cognome. Quindi Angelo e Gregorio sono due nomi. Esatto, quindi. Sì, sì, è vero. No, Angelo è il nome, Gregorio è il cognome. Confermi? Confermo. Accendo. Esatto, accendi. Confermo anch'io quello che si chiama Angelo Gabriele, lascia stare. Comunque, allora, se volete, dal titolo dicevo... Il Rinascente. E allora, questo è un brano, se volete chiamarci, anche per avere gratuitamente questo CD, i primi tre che chiamano, ecco, questo CD è un ingresso al concerto di domani o di dopodomani, sì, all'ULB. Sì. Alla Salle del Vo alle 8:30. Esatto, il numero è 02345 2656. 02345 2656. E quindi, allora, Angelo, quello che sentiamo nel tuo disco è un sassofono un po' diverso da quello che siamo abituati a sentire nel jazz. Non si può chiamare jazz. Ma c'è sempre una disputa su catalogare la musica, perché noi sentiamo delle cose, gli esperti dicono altre cose, però potremmo catalogarla come jazz, come anche non potremmo. Quindi è un po'... io la catalogo come jazz sperimentale acustico. Acustico perché? Perché tutto quello che è presente nel disco è fatto dal sassofono. Il sassofono nasce fondamentalmente come strumento acustico, che non ha bisogno quindi di elettricità personale come la chitarra elettrica, sì, o il piano o altre cose. E diverso dal modo tradizionale, in parte sì, perché come avete ascoltato questo, infatti il Renascente fa parte del CD di quest'album che si chiama Alla ricerca delle radici, ed è il mio primo lavoro di sassofono solo, dove utilizzo una tecnica del tutto particolare. E infatti tutto quello che i nostri amici di Radio Alma hanno appena ascoltato è tutto fatto dal mio sassofono, da me, quindi non c'è niente che viene da un altro strumento, nemmeno la parte percussiva. E tutto questo, la cosa che poi caratterizza il tutto, è che avviene dal vivo, live, al momento, senza niente di preregistrato, senza nessuna traccia che io ho registrato, che ne so, a casa e lì prendo e premo play. No, viene tutto fatto al momento. E lascia spazio all'improvvisazione, quindi. Assolutamente sì. E questo poi verrà più chiaro quando spiegheremo un po' il senso di questo Alla ricerca delle radici. Per quanto riguarda, per rispondere alla tua domanda, il suonare in maniera tradizionale, io ho cercato, perché ci sono molti artisti attualmente che stanno muovendosi in questa direzione, fortunatamente, perché siamo nel, sì, 2011, e non che le cose debbano per forza cambiare, ma se cambiano in cose buone, perché no, soprattutto se c'è gusto. E infatti, a proposito del gusto, dicevo, molti artisti stanno muovendosi in questa direzione, però in maniera molto più elettronica, quindi non deturpando, modificando il suono del sassofono, dal suono del sassofono utilizzando alcune macchine lo fanno sembrare come un basso, proprio cambiano il suono. Io ho cercato di mantenere il suono del sassofono puro, quello a cui le nostre orecchie sono state abituate da decenni e decenni, dal jazz nato in quei bassi fondi, sì, di perdizione. Come sempre le ragazze, le figlie non ci devono andare. Sì. No, lì no. Questo programma è vietato ai minori. Ma non il mio CD, il mio CD si esatto, può comprare. No, perché e infatti è innovativo, è rivoluzionario. Esatto. Sì. Esatti. E infatti, cioè, citando proprio le tue parole, tu dici appunto che regalano queste atmosfere, regalano degli odori senza anche. Tempo, esatto. Sì. Posso dire a cosa mi fa pensare questo brano? Sì. Dimmi. Fa pensare a un cavallo che marcia nella campagna. Non so se si dice marcia. Galoppa. Questo francese. Il francese dappertutto. Comunque sì, mi fa proprio pensare a un cavallo in campagna. Sì, su una strada sterrata. Questa musica, per sì. La base. Certo, la parte percussiva. Sì, sì. Sì. Infatti è per questo che si chiama qualcosa... cavallo pure nascente, mm-hmm. lo possiamo chiamare, però perché appunto è un qualcosa che nasce ed è non a caso il primo brano del disco, perché è un qualcosa che si apre, è una porta che si apre in questo mio piccolo appartamento ai quali tutti voi siete invitati, e se volete condividerlo con me potete venire domani all'ULB alle 8:30 alla sala del VO. Sì. Però ritornando al fatto della tecnica, infatti dicevo, io ho cercato di mantenere, anzi l'ho fatto, ho tenuto il suono del sassofono puro, naturale, così com'è, però ho aggiunto della tecnologia un po', che è questo, perché io uso e faccio tutto questo dal vivo, perché una persona può chiedere, ma come fai a fare tutte queste cose se sei solo tu? Utilizzo un pedale che si chiama loop machine, che non è nient'altro che un qualcosa che registra tutte queste cose che io faccio al momento e le manda in loop. E associato a questo ho fatto delle ricerche su come poter cambiare un po' questo modo di suonare questo strumento così tanto incassato in questo cofanetto del jazz, in questo scaffale. E hai cominciato a smontare lo strumento. Bravissime. Ma perché questa via non serve? Ma perché? Rifacciamo il sassofono. Beh sì, e infatti io mi sono detto, ma fammi levare il becco e fammi vedere se utilizzando e muovendo le mamme tappino le orecchie ai bambini, la lingua in un certo modo, con una certa pressione, ok mamme adesso potete levare, cosa succede? E voilà. Oh, voilà, Bruxellois, ho ottenuto, certo, non tutto suite, come si dice qua, non subito, però ho avuto un suono che rassomigliava a quello della gran cassa della batteria. E poi facendo con un altro, aprendo delle altre chiavette, ho incominciato ad avere il suono del Charleston e poi quello del rullante e ho avuto... una batteria intera. Una metamorfosi del sassofono. Sì. Ed è con questa tecnica che io costruisco tutti questi brani che sono presenti alla ricerca delle radici. Che danno appunto atmosfere senza tempo, melodie liriche che galleggiano su ritmi primitivi, momenti intimi, effetti e suoni che guidano senza incertezze l'ascoltatore verso posti lontani, attraversando immagini, emozioni, sensazioni ed alcune volte anche odori. Queste sono tue parole. Sì. Perché Angelo, oltre a essere un musicista, è anche uno scrittore. Abbiamo scoperto stasera. Esatto. Che parolona. Inizia ad essere uno scrittore. Esatto. Si avventura. Diciamo che quello che lui fa è aprire la porta all'elettricista. No, aprire la porta per far entrare l'ascoltatore in questa stanza. Sì. in cui uno può veramente sentire, come dici tu, vivere queste atmosfere, entrare in questo mondo magico, ecco. Sì. Però questa stanza è una stanza con tante finestre, oppure mentre la musica parte i muri vanno via, perché questa musica fa veramente pensare alla natura. Sì, fa veramente pensare alle atmosfere. Sì, a varie cose che richiamano... fa pensare, ed è per questo, proprio perché suscita tanto il, diciamo, la nostra sfera fantasiosa, che spero voi telespettatori e radioascoltatori soprattutto abbiate ancora funzionante. Sì. E questa sera, insieme a questi nostri amici e amiche con Radio Alma, cercheremo di riattivarvela. Ho pensato, e mi è venuto tutto così, tutto di getto, di scrivere delle piccole novelle, che magari poi ne riparleremo, e magari prima di parlare delle novelle, se dalla regia ci aiutano, facciamo ascoltare un pezzo dove uso molto questa parte percussiva, e questo pezzo si chiama Brufen and Clog Nose, e prima di lanciarlo vorrei dire che Brufen è il nome della medicina che si prende, sì, quando Brufen. Si ha, sì, il naso otturato. Sì, e clog nose significa naso otturato, quando ci sia un po', e infatti questo pezzo io l'ho scritto quando ero raffreddato, ecco, e l'ho, ecco, chiamato Brufen e clog nose. E rieccoci qua, salve a tutti, siamo sui Colori dell'Anima. Ricordiamo che questa sera il nostro ospite è Angelo Gregorio, musicista sassofonista, che a tutti quelli che, ai primi tre che chiameranno questa sera, otterranno un CD e un'entrata gratis al concerto di domani sera. Sì, ai primi tre che chiameranno, sì, sarà offerto l'entrata alla Salle del Vaux dell'ULB domani alle 8:30, più un CD in omaggio. Esatto. Quindi chiama il numero di telefono? Lo 02 345 26 56. E se invece volete seguirci via internet, www.icoloridellanima.eu. Glu. E a proposito di glu, stavamo riflettendo sulla canzone che abbiamo appena ascoltato, Brufen, Clog Nose, che appunto stavamo parlando dell'influenza che le parole di Angelo possono avere su questo pezzo. Influenza proprio nel vero senso della parola. Nel vero senso della parola, nel senso che c'aveva l'influenza. Cioè... Sì. Quindi per questa canzone è un'atmosfera un po' diversa dalle altre. Sì. Esatto. Ma insomma, parlando di influenze e non influenze, perché il titolo, cosa, insomma, alla ricerca delle radici, perché questo titolo? Ma alla ricerca delle radici perché con questo album ho ripercorso un po' tutti i posti dove sono stato, e ripercorso anche in maniera proprio pratica, sono riandato in alcuni posti, e proprio perché questo progetto, questa è l'influenza del blu. Basandosi molto su atmosfere, quindi delle melodie che stanno in queste atmosfere, mi sono reso conto che man mano che sperimentavo e suonavo, riproducevo sempre di più delle atmosfere simili a dei posti dove ero nato, cresciuto. E quindi quando ho preso atto di questa cosa, ho cercato di amplificarla ancora di più, quindi lavorando proprio su riprodurre delle date atmosfere, delle atmosfere ben precise, come per esempio in Brufen, oltre al naso otturato, ho cercato anche di inserirci un po' di caos dentro, un po' delle ambulanze che passano sotto casa mia ogni volta qui a Bruxelles, tutta la gente che va di corsa, gli autisti belga che sono pazzi, che ti buttano sotto, quindi un po' di questo caos che poi alla fine si risolve quando rientri a casa, chiudi la porta e dici ah, basta. Casa. Dipende da che lato, su che strada c'è la tua finestra. Perché Cristina, anche se rientra a casa, praticamente è ancora in centro città. E anche di notte dice che bello, dormo in strada. E allora per questo dovresti ascoltare una delle atmosfere che per esempio a me piace tantissimo, che penso che sia uno degli ultimi pezzi, anzi col quale andremo a chiudere, che è il respiro dell'elefante. Elefante, che è, che è preceduto da una novella. E appunto, perché queste novelle? Da cosa escono? Cosa ci racconti? Sì, perché Alla ricerca delle radici, essendo un ripercorrere il mio, diciamo, tutto quello che ho fatto fino in questo momento, mi è venuto quasi spontaneo per alcuni pezzi, avendo ripercorso, rifatto questa atmosfera di questo posto, anche mi è venuta la voglia di raccontare in questo pezzo una storia di qualcuno, di qualcosa legata a questo posto. E sono nate queste novelle, che sono, non sono nient'altro che, io le vedo come delle stanze in cui accompagno l'ascoltatore prima del pezzo e lo metto ben comodo e gli spiego con quale lente può guardare questo paesaggio che gli vado a dipingere di fronte a lui. E poi il pezzo incomincia e lui ha sempre la facoltà di scegliere che lente, però io ho voluto dare un qualcosa in più. E niente, quindi sono nate storie come Ballando in Si, che parla di un uomo in un'osteria che si ubriaca e parla sempre della stessa donna, e questo povero cameriere che lo serve è lì, che sa a memoria tutte le parti di questa donna, i capelli, tutti i movimenti. Poi parla del mare, perché io vengo da regione, Salerno, esatto. E la novella introduttiva di Orizzonte, e parla di come questa barca piccolina lascia il porto verso queste scintille danzanti, che non sono nient'altro che i gabbiani che danzano in questa sfera di sole. E parla delle cose effimere, delle cose, del senso della vita, di quanto il mare amplifichi tutto questo. Poi c'è la novella che andremo ad ascoltare, Il respiro dell'elefante, che parla di un pastore di 82 anni che va in un bar e assiste per televisione a uno spettacolo, a un documentario sugli elefanti, e lui non aveva mai visto un elefante. Ma poi andremo ad ascoltare tutti i personaggi che hai conosciuto. Sì. Eccetto il mare, che ancora non ho finito di conoscere. È il mare. Ma Angelo, per Brufen c'è, sì, una novella anche? No, per Brufen non c'è, no, le novelle sono quattro, sono per Orizzonte, per Ballando in Si, Il vento della cattedrale, che parla di un prelato che vede la sua piccola chiesetta come una cattedrale, e in questa cattedrale sente dei fruscii, dei sussurri, e si pensa, e la mattina infatti lui ogni qualvolta va a aprire questa cattedrale, chiude e apre questa porta del retro, e questo suono rimbomba in questa cattedrale, e lui si immagina che risvegli un po' tutte le statue, tutti i dipinti, e forse, chissà, lui pensa anche Gesù, e lui si va a mettere a questo primo banco, e lì si sente veramente privilegiato, perché sente tutti questi fruscii, questi sussurri che lui pensa siano tutti questi dipinti e statue che si risvegliano, ma alla fine lui sa che non farà mai riparare le finestre che sono in alto nella cattedrale, perché lo aiutano a entrare in questa sua fantasia. Sì, e poi c'è Il respiro dell'elefante, che parla di questo pastore. Il respiro dell'elefante è un pezzo di chiusura dell'album. Infatti l'album, se non vado errato, perché dovrebbero essere 8 brani, se non vado errato, giusto? Sono 8 brani, 6? 12. Sì, 12 con le, sì, sono 8 brani più 4, con le 4 storie, sì, con le l'introduzione 4 storie. Delle storie sono 8 brani, infatti il primo brano è Il Rinascente, quindi qualcosa che nasce, e Il respiro dell'elefante, lo capiremo ascoltando la novella, è un qualcosa che finisce ma con un po' di speranza, e lo capiremo adesso che lo andremo ad ascoltare. E questo è Alla ricerca delle radici, è quello che io ho vissuto, e quello che ci tengo ad aggiungere, perché siamo, penso, in chiusura, sì, è che Alla ricerca, sì, delle radici è un fusto, come un albero che ha delle radici ben assestate nel terreno, ma come ogni albero ogni anno cambia le foglie e mette i rami magari in posizioni diverse, e così è questo CD, perché ogni pezzo ha la sua melodia principale, ma ad ogni concerto, che spero che veniate domani all'ULB alle 8:30 alla Salle del Vaux, ad ogni concerto cambia tutto, ma pur sempre affondando nelle radici e nella terra, giusto, nella terra dalla quale vieni, sì, che del sud dell'Italia così caldo che tutti quanti conosciamo bene. Quindi è un modo anche per far rinascere, per fare rivivere le tue origini, sì, quello che tu sei, e che anche in questa città così multietnica e internazionale. Assolutamente sì. Quindi speriamo che i prossimi frutti di questo albero siano altrettanto interessanti. Vedremo quali sperimentazioni farai. E tra l'altro, Angelo, tu hai anche un sito, sì, se lo vuoi ricordare. Sì, il mio sito è www.angelogregorio.com. Esatto, e lì potete trovare alcuni brani da ascoltare o da scaricare direttamente. Sì, esatto, sì. Ci sono due bonus track scaricabili completamente gratis dal mio sito. Esatto, sono molto belli. Sono una bella atmosfera. Esatto, e poi tra l'altro, insomma, possono anche, chi è interessato può anche conoscerti meglio attraverso questo sito. Tu, sì, fai parte di, tu hai anche altri due progetti. Sì, ho anche altri due progetti, sì. Uno è di jazz sempre sperimentale, si chiama Calzone e Gamberetti. Sì, sempre molto, molto mediterraneo. Calzone Gamberetti è un progetto dove c'è Carla Piombino alla voce, Olivier Fanuel belga al basso e io al sassofono, e poi c'ho l'Angelo Gregorio Band, che è stata fondata nel 2009, dove io canto e suono la chitarra, e sono tutti pezzi scritti da me, sia musica che testi. E è molto diverso come, sì, totalmente, come genere, totalmente, sì, diversi. Lì è proprio musica pop leggera, dove ho visto che suona il clarinetto anche. Cerco di suonare, sì, però non ci sono mai riuscito. E, ok, quindi allora, se vuoi ricordare l'ultima volta, domani alle 20:30 e alle 10 il tuo concerto. Sì, sì, sì, sì. Alla Salle del Vaux, all'ULB. Sì, al stabilimento F1. Stabilimento F1. E poi un'ultima cosa forse da ricordare, che volevi ricordare, era un altro progetto che, sì, è non molto è interessante. Un progetto, è una giornata con degli amici italiani e non. Abbiamo pensato di organizzare una giornata di atelier e di concerti, infatti si chiama l'arte a tavola, e che prenderà si mangia? Sì, lo organizzano principalmente anche degli italiani, quindi si mangia sicuro. Sarà il 10 dicembre 2011, dalla mattina fino alla sera ci saranno atelier di collage, atelier di teatro, atelier di musica e 4 concerti la sera, tra l'altro anche uno dei miei concerti, ma ricordiamo soprattutto domani e dopodomani all'ULB 20:30 alla Salle del Vaux. Esatto. Alla ricerca delle radici. Sì. Esatto. E l'Ara Table invece il 10 dicembre 2011. Sì. Magari ti inviteremo per... E il sito dell'Ara Table è risopatatenfolk.eu. Allora, tra risopatatenfolk.eu calzone e gamberetti. E poi cosa c'è? Cioè, ragazzi, se non avete ancora mangiato... Ti piace mangiare? Assolutamente sì. A chi non piace mangiare? Esatto, magari ora ti rinvitiamo per un altro magari un concerto live fatto, sì, qui in live. Sarebbe davvero bello. E tra l'altro a gennaio mi dicevi anche, sì, alla a FNAC. Gennaio ci sarò alla FNAC qui a Tua Sandor, poi alla FNAC a City 2. Ecco, quindi insomma ti auguriamo tanto successo. Grazie. E allora niente, vi aspettiamo tutti domani all'ULB alle 20:30 e lunedì prossimo dalle 21 alle 22, sempre sui colori dell'anima, con Rosanna. Ci sarà Rosanna? Sì. E allora, e ricordiamo il nostro sito www.radioalma.eu, dove potete ascoltare le trasmissioni e scaricarle anche con il podcast o in diretta. Esatto. E allora adesso ascoltiamo Angelo. Vuoi lanciare il tuo pezzo? Da Alla ricerca delle radici, il respiro dell'elefante.